Nakeina keinga na kozonga, mome mweza lili wate, gana kozonga e. Ya solo kalinga na kemo sika, na tike liyo sebo kumba ya bana e. Oh, gana nani mobembo, nasima, obate la bana e. Oh, gana nani mobemba, obate la bana e. zakanzaka elinga tuta zakanzaka elinga tuta zakanzaka elinga tuta zakanzaka elinga tuta zakanzaka elinga tuta zakanzaka elinga tuta. Gasema, Ikoangia, Ikoangia, Gasema, Gasema, Ikoangia, Ikoangia, Gasema, Gasema, Ikoangia, Ikoangia, Gasema, Gasema, Ikoangia, Ikoangia, Ikoangia, Gasema, Gasema, Gasema, Gasema, Ikoangia, Ikoangia, Gasema, Gasema, Ikoangia, Ikoangia, Gasema, Gasema, Ikoangia, Ikoangia, Gasema, Gasema, Ikoangia. Zakanzaka, Beringa Tumba. Zakanzaka, Elinga Tumba, Zakanzaka, Elinga